Il terzo anello ad alta voce, per chi suona la campana, di Ernest Hemingway. E il sordo combatteva la sua battaglia sulla cima di una collina. Quella collina non gli piaceva affatto. Appena la vide pensò che somigliava a un tumore, ma non c'era da scegliere. L'aveva scorta da molto lontano e vi si era arrampicato al galoppo col pesante fucile mitragliatore sulla schiena, sforzando il suo cavallo. Il cavallo faceva una gran fatica. Il calcio del fucile gli entrava tra le cosce, il sacco delle granate a mano gli batteva su un fianco, sull'altro il sacco coi caricatori del fucile. Joaquin e Ignacio si fermavano e sparavano, per dar tempo al sordo di sistemare il fucile. C'era ancora neve, la neve che li aveva rovinati, e quando il suo cavallo fu colpito così gravemente che si trascinò barcollando su per l'ultimo pezzo della salita, il sordo lo rimorchiò tirandolo per la briglia e le redini gli segavano la spalla. Aveva continuato ad arrampicarsi più svelto che poteva, tra le palle rimbalzanti sui massi, con i due sacchi pesanti sulle spalle. Poi, afferrato il cavallo per la criniera, lo aveva sparato rapidamente, espertamente e con tenerezza, proprio nel punto che gli conveniva, di modo che il cavallo era stramazzato a testa in giù a colmare un vuoto fra due rocce. Sistemata la mitragliatrice sulla groppa del cavallo, il sordo aveva sparato due caricatori. La mitragliatrice sobbalzava, i caricatori vuoti si conficcavano nella neve, dal cuoio bruciato dove era appoggiata la canna calda usciva il puzzo del crine arso e il sordo sparava addosso a quelli che salivano sulla collina, costringendosi a sparpagliarsi per cercare riparo, e intanto aveva sempre un gelo nella schiena, perché non sapeva quello che c'era alle sue spalle. Quando l'ultimo dei cinque uomini fu in cima alla collina, la sensazione di gelo nella schiena gli era passata e aveva messo da parte i caricatori che gli rimanevano per quando ne avrebbe avuto bisogno. Dei cinque uomini che erano arrivati sulla cima, tre erano feriti e il sordo era ferito al polpaccio e in due punti del braccio sinistro. I cinque uomini erano sparpagliati come le punte di una stella a cinque punte. Avevano scavato la terra con le mani e le ginocchia e avevano elevato davanti alle loro teste e alle loro spalle cumuli di pietre e monticelli di terra. Così riparati, stavano collegando i singoli cumuli con altre pietre e terriccio. Joaquin, che aveva 18 anni, si serviva di un elmetto di acciaio col quale scavava la terra, passandolo poi pieno ai compagni. «Serve finalmente a qualcosa», gli disse il sordo con la sua fonda e rauca voce. «Resistir y fortificar es vencer», disse Joaquin, la bocca indurita dal secco della paura, che va al di là della normale sete della battaglia. Era una delle massime del Partito Comunista e significava resistere e fortificare e vincere. E il sordo guardò lontano, giù per il pendio, dove un cavalleggero nemico strisciava dietro un sasso. Voleva molto bene al ragazzo e i motti in quel momento gli davano sui nervi. Si sporse e guardò molto attentamente tutto intorno alla carogna del cavallo. A un tratto si udì, molto più giù per la china, un rapido martellare di colpi da dietro un masso e il sordo udì i proiettili della mitragliatrice leggera affondarsi nella carogna del cavallo. Strisciò dietro il cavallo e gettò un'occhiata nell'angolo tra il fianco del cavallo e il masso. C'erano tre corpi sulla china, proprio sotto di lui, nel posto dove erano caduti quando i fascisti avevano preso d'assalto la cima, coperti dal fuoco della mitragliatrice, e lui e gli altri avevano fatto fallire l'attacco buttando e facendo rotolare giù granate a mano. C'erano altri cadaveri che egli non poteva vedere sull'altro versante della collina. Non c'era nessuna zona morta che facilitasse agli assalitori l'accesso alla cima e il sordo sapeva che, fin tanto che fossero durate le munizioni e le granate e gli rimanessero almeno quattro uomini, il nemico non avrebbe potuto scacciarli di lì a meno che non portasse un mortaio da trincea. Non sapeva se avessero mandato la granja a prendere il mortaio, forse no, perché certo stavano per venire gli aeroplani. Erano passate quattro ore da quando l'aeroplano di osservazione li aveva sorvolati. Il sordo aveva ucciso il giovane ufficiale che comandava l'attacco con una granata che era arrotolata giù per la china, saltellando mentre gli altri salivano di corsa, piegati in due. Nella fiammata gialla e nello sbuffo rombante grigio del fumo aveva visto l'ufficiale cadere in avanti dove adesso giaceva, trasformato in un pesante fagotto lacerato di panni vecchi, segnando il punto più avanzato raggiunto dall'attacco. E il sordo guardò quel cadavere e poi, giù per la china, gli altri. Gente coraggiosa ma stupida, pensò il sordo, ma hanno abbastanza buon senso per non attaccarci di nuovo prima che arrivino gli aeroplani, a meno che naturalmente non aspettino un mortaio. Con un mortaio sarebbe facile. Il mortaio era la soluzione normale e il sordo sapeva che lui e i suoi sarebbero morti appena fosse arrivato il mortaio. Ma quando pensava all'arrivo degli aeroplani, si sentiva così nudo su quella collina come se tutti gli abiti e perfino la pelle gli fossero stati tolti. Non aveva affatto paura di morire, ma l'idea di essere intrappolato su quella collina, buona solo per morirci sopra, lo mandava in bestia. «Se avessimo potuto svignarcela», pensava. Se avessimo potuto fargli risalire tutta questa lunga valle, o se avessimo potuto arrivare sulla strada, tutto sarebbe andato bene. Ma c'era questo cancro di collina. Dobbiamo sfruttarla meglio che possiamo. E finora l'abbiamo sfruttata bene. Morire era niente, e il sordo non aveva dentro di sé una visione chiara della morte, né la temeva. ma vivere era l'immagine di un campo di grano che ondeggia al vento sul fianco di una collina. Vivere era un falco nel cielo. Vivere era una giarra di terra piena d'acqua nella polvere della trebbiatura, col grano lanciato in aria e la pula che vola. Vivere era un cavallo tra le cosce e un fucile sotto una gamba, e una collina e una valle e un fiume fiancheggiato da alberi sulle rive e l'estremo della valle e le colline al di là. E il sordo era steso sul lato sano e guardava il cielo. Era coricato su un mucchio di caricatori vuoti e la sua testa era protetto dalla roccia e il suo corpo dalla carogna del cavallo. Le ferite gli si erano malamente indurite. Soffriva molto ed era troppo stanco per muoversi. «Che ti succede, vecchio?» gli chiese l'uomo accanto a lui. «Niente, mi sto riposando un poco». «Dormi», l'altro disse. «Quelli là ci sveglieranno quando arriveranno». Proprio in quell'istante qualcuno gridò in fondo alla china. «Ascoltate, banditi!» La voce usciva da dietro le rocce, dove era collocato il più vicino fucile mitragliatore. «Arrendetevi ora, prima che gli aeroplani vi facciano a pezzi!» «Che cosa dice?» chiese il sordo. «Joaquin glielo disse». E il sordo rotolò su un lato e si raddrizzò in modo da accovacciarsi di nuovo dietro il fucile. «Forse gli aeroplani non verranno», disse. «Non rispondere e non sparare. Forse potremo deciderli ad attaccarci di nuovo. Dammi la tua pistola grande. Chi ha una pistola grande? Ecco qua. Dammela». Accovacciato sulle ginocchia, El Sordo prese la grossa 9 mm Star e sparò un colpo a terra vicino al cavallo morto. Attese e poi sparò di nuovo 4 volte a intervalli irregolari. Poi aspettò di nuovo, contando fino a 60, e infine sparò un ultimo colpo direttamente nella carogna del cavallo morto. Sghignazzando, restituì infine la pistola. «Caricala di nuovo!» sussurrò. «Tenete la bocca chiusa e che nessuno spari!» «Bandidos!» urlò la voce dietro le rocce. Sulla collina nessuno fiatò. «Bandidos! Arrendetevi prima che vi facciamo a pezzettini!» «Abboccano!» disse felice il sordo. Vide in quel momento un uomo sporgere la testa al di sopra dei massi. Dalla vetta nessuno sparò e la testa fu nuovamente ritirata. E il sordo aspettò, spiando attento, ma non accadde nient'altro. Girò poi la testa e guardò gli altri che sorvegliavano ognuno il suo settore del pendio. Vedendosi guardati da El Sordo, gli altri scossero la testa. «Nessuno si muova!» egli sussurrò. «Maledetti figli di puttana!» riprese la voce dietro le rocce. «Porci rossi!» E il sordo sghignazzava. Girando l'orecchio buono, poteva udire ancora gli insulti abbaiati dalla voce. «È meglio dell'aspirina», pensava. «Quanti ne prenderemo? È mai possibile che siano così fessi?» Thank you. La voce ora taceva di nuovo, e per 3 minuti i 5 non udirono niente e non videro nessun movimento. Poi il tiratore in vedetta, dietro il masso, a 30 metri circa giù per la discesa, si scoprì e fece fuoco. La pallottola batté contro una roccia e rimbalzò con un sibilo acuto. Poi il sordo vide un uomo piegato in due uscire di dietro il mucchio di sassi dove era la mitragliatrice e attraversare correndo il terreno scoperto fino al gran masso dove era nascosto il tiratore in vedetta. Egli si tuffò quasi dietro il masso. E il sordo si guardò intorno. I suoi compagni l'avvertirono, gesticolando, che niente si muoveva negli altri settori. Sorridendo felice, il sordo scosse la testa. «Questa è 10 volte meglio dell'aspirina», pensò, e attese felice come può esserlo solo un cacciatore. Giù per la discesa, l'uomo che era passato correndo da dietro il mucchio di pietre al riparo del masso, parlava ora col tiratore in vedetta. «Tu ci credi?» «Non lo so», disse il tiratore. «Sarebbe logico», fece l'altro, che era l'ufficiale che aveva il comando. «Sono circondati, non possono aspettarsi altro che la morte». Il tiratore non rispose. «Tu che cosa ne pensi?» disse l'ufficiale. «Niente», disse il tiratore in vedetta. «Hai notato qualche movimento dopo i colpi?» «No, niente». L'ufficiale guardò l'orologio da polso. Erano 3:50. «Gli aeroplani dovrebbero essere qui da un'ora», disse. Proprio allora un altro ufficiale si precipitò dietro il masso. Il tiratore si spostò per fargli posto. «Tu, Paco!» disse il primo ufficiale. «Che cosa ne pensi tu?» Il secondo ufficiale ansimava ancora forte per la rapida corsa su per la salita dal posto della mitragliatrice. «E io credo che sia un trucco», disse. «Ma e se non fosse? Bella figura faremmo a starcene qui ad assediare dei morti». «E i mortai arrivano?» chiese il secondo ufficiale. «Dovrebbero essere qui fra un'ora, forse prima». «Aspettali allora. Abbiamo già fatto abbastanza sciocchezze». «Bandidos!» urlò il primo ufficiale a un tratto, alzandosi e sporgendo tutta la testa sopra il masso. Adesso, in piedi, la cima della collina gli sembrava molto più vicina. «Porci rossi, vigliacchi! Sparate, vigliacchi, se siete vivi!» urlava. «C'è qua uno che non ha paura di nessun rosso che sia mai uscito dal ventre della gran puttana!» Quest'ultima frase fu un po' lunga da gridare, e la faccia dell'ufficiale, quando egli ebbe finito, era congestionata e rossa. Il secondo ufficiale, che era un uomo magro e abbronzato, con 2 occhi calmi, una bocca sottile dalle lunghe labbra e le guance incavate coperte da peli ispidi, scosse di nuovo il capo. L'ufficiale che gridava era quello che aveva ordinato il primo assalto. Il giovane tenente, che adesso giaceva morto su per la china, era stato il miglior amico dell'altro tenente, che si chiamava Paco Berrendo, e che ora ascoltava le escandescenze del capitano, il quale si trovava evidentemente in uno stato di esaltazione. Il capitano rimase in piedi là, guardando la cima della collina. Il tenente Berrendo guardava il cadavere dell'altro tenente proprio sotto la cima. Il tiratore in vedetta guardava in terra. A un tratto alzò gli occhi sul capitano. «Lassù non c'è più nemmeno uno vivo», disse il capitano. «Tu!» si rivolgeva al tiratore. «Va un po' su a vedere». Il tiratore abbassò la testa e tacque. «Mi senti?» gli urlò il capitano. «Sì, signor capitano», disse il tiratore senza guardarlo. «Allora alzati e va». Il capitano aveva ancora in mano la pistola. «Mi senti?» «Sì, signor capitano». «Perché non vai allora?» «Perché non voglio, signor capitano». «Non vuoi?» Il capitano appoggiò la pistola alla schiena dell'uomo. «Non vuoi andare?» «Ho paura, signor capitano», disse il soldato con dignità. Vedendo la faccia e gli occhi strani del capitano, il tenente Berrendo pensò che avrebbe ucciso senz'altro il soldato. «Capitano Mora», disse, «il soldato potrebbe aver ragione». «Di dire che ha paura? Ha ragione di dire che non vuole obbedire a un ordine?» «No, ha ragione di dire che è un trucco». «Sono morti tutti», disse il capitano. «Ho detto che sono morti tutti, hai sentito?» Si alzò. appoggiò le mani al masso e si tirò su, puntando goffamente le ginocchia finché non fu in piedi sul masso. «Sparate!» gridava in piedi sul masso di granito grigio agitando le braccia. «Sparate, uccidetemi!» Il capitano smise a un tratto di gridare e si volse al tenente berrendo. I suoi occhi erano più strani che mai. «Paco», disse contento, «tu ed io saliremo lassù». «Io no». «Allora andrò solo», disse il capitano. «Qui c'è troppo puzzo di vigliacchi». Tenendo la pistola nella destra, il capitano si mise a salire fermamente il pendio. Berrendo e il tiratore lo guardavano. Il capitano non cercava di ripararsi, guardava dritto davanti a sé le rocce, il cavallo morto e la terra smossa di fresco della vetta. Steso al riparo del cavallo all'angolo del masso, il sordo guardava il capitano salire svelto verso di lui. «Uno solo», pensava. «Ce ne arriva uno solo. Ma dal suo modo di parlare questo qui è Casamayor. Guardalo un po' come cammina, guarda che animale, guarda come viene avanti. Questo qui tocca a me, sì, questo qui me lo porto in viaggio con me. Questo che viene avanti farà lo stesso mio viaggio. Avanti, compagno viaggiatore, vieni su, svelto, vieni su, sbrigati, vieni che t'aspetto. Avanti, su, cammina, non ti fermare, vieni su presto, vieni come stai venendo, non ti fermare a guardare quelli là». Abbassò dolcemente il grilletto del fucile mitragliatore e il fucile gli rimbalzò 3 volte contro la spalla con il sussulto irregolare che caratterizza il rinculo di un'arma automatica su un treppiede. Il capitano giaceva ora prono sul versante della collina, col braccio sinistro ripiegato sotto di sé. Il braccio destro, che aveva impugnato la pistola, era allungato in avanti sopra la testa. Giù per il versante il nemico aveva riaperto il fuoco contro la vetta. Proprio in quel momento gli altri in cima alla collina udirono il primo ronzio degli aeroplani che si avvicinavano e il sordo non li udì. In quel momento sentì che gli toccavano la spalla. Si voltò e vide la faccia livida, stirata dalla paura di Joaquin e guardò dove indicava il ragazzo e vide arrivare i 3 aeroplani. Proprio allora il tenente berrendo uscì da dietro il masso e a testa bassa si precipitò giù per la discesa verso il muretto di sassi dove era la mitragliatrice. Occupato com'era a guardare gli aeroplani, il sordo non lo vide. «Aiutami a tirar fuori questo», disse a Joaquin, e il ragazzo trascinò in avanti il fucile automatico che era tra il cavallo e il masso. Gli aeroplani si avvicinavano rapidamente, erano scaglionati e ad ogni secondo si ingrandivano e il rumore cresceva. «Mettetevi sulla schiena per sparargli», disse il sordo. «Sparate alle eliche appena arriveranno». Seguitava intanto a fissarli. «Cavrones, hijos de puta!» Tra il martellio della mitragliatrice, Joaquin udì il sibilo dell'aria che si spaccava e nel rombo nero, rosso, la terra tremò sotto le sue ginocchia e poi si sollevò per percuoterlo in faccia e poi terriccio e frammenti di roccia piovvero da ogni parte e Ignacio gli cadde addosso insieme con la mitragliatrice. Ma Joaquin non era morto, perché udì di nuovo quel sibilo e di nuovo la terra gli tremò sotto rombando. Ancora un altro sibilo e la terra si inclinò sotto il suo ventre e una parte della cima saltò in aria e poi ricadde lentamente sugli uomini allungati in terra. Sulla cima della collina non era più vivo nessuno, eccetto il ragazzo, Joaquin, svenuto sotto il cadavere di Ignacio. Joaquin sanguinava dalle orecchie e dal naso, non aveva più capito nulla e aveva perduto la coscienza, da quando a un tratto si era trovato proprio al centro del tuono e il respiro gli era stato strappato dal corpo quando quella certa bomba gli era caduta così vicino. Il tenente Berrendo si fece il segno della croce e gli scaricò la pistola nella nuca, rapidamente, gentilmente, se un gesto simile può dirsi gentile, come il sordo aveva ucciso il cavallo ferito. Il tenente Berrendo, ritto sulla cima, guardò giù, lungo il versante, i propri morti. Poi il suo sguardo si mise a errare per la campagna aperta, dove lui e i suoi uomini avevano galoppato prima che il sordo si fosse rifugiato lassù. Osservò tutti i movimenti fatti dalle truppe, poi ordinò che i cavalli dei morti fossero portati su e i cadaveri dei soldati legati sulle selle per trasportarli alla granja. «Prendete anche quello», disse. «Quello con le mani sul fucile mitragliatore. Deve essere il sordo. È il più anziano e faceva funzionare lui il fucile. No, no, no. Tagliategli la testa e avvolgetelo in un poncio». Rifletté un minuto. «Anzi, prendete tutte le teste. Quelle degli altri giù per la china e nel punto dove li abbiamo sorpresi. Raccogliete fucili e pistole e legate quella mitragliatrice su un cavallo». Omero Antonutti ha letto Per chi suona la campana di Ernest Hemingway, regia di Anna Antonelli, riduzione di Giovanni Piccioni, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.